Europa 24. And now please allow me to invite Eurocommissioner Stefan Fiele to raise the European Union flag. As the flags are raised, the choir will be singing the Auto Joy by Beethoven. E buongiorno da Anna Migliorati. Siamo in 28, l'avete sentito, dalla mezzanotte la Croazia è entrata ufficialmente nell'Unione Europea. Questa mattina a Zagabria all'alza bandiera sulle note dell'inno alla gioia che sentite dalla capitale croata. Sventola dunque a Zagabria il simbolo dell'Unione Europea e a dare il benvenuto il presidente della Commissione José Manuel Barroso, che non ha mancato di usare anche la lingua croata. Dobro jutro, Hrvatska. Dobro došla u Europsku uniju. This morning Croatians have woken up for the first time as citizens. Questa mattina la Croazia entra per la prima volta tra i paesi dell'Unione Europea dopo le fantastiche celebrazioni della notte scorsa, ha detto Barroso, lo sentite? C'è un proverbio croato che dice: nel mondo l'unica certezza è il cambiamento. E la Croazia è cambiata in meglio, è profondamente diversa rispetto a 20 anni fa, ha aggiunto il Presidente della Commissione. C'è più rispetto per i diritti fondamentali, non c'è discriminazione e c'è una moderna economia. Ma sentiamo allora quale Croazia entra nella famiglia europea. Dopo aver presentato la domanda di adesione nel 2003, la Croazia è dovuta passare attraverso alcune controversie prima di vedere la sua richiesta accettata all'unanimità da tutti i paesi membri. Uno Stato che fa il suo ingresso dopo processi di trasformazione profondi, talvolta tormentati e ancora in atto, con un'amministrazione decisa a seguire la strada europea e un'opinione pubblica preoccupata per il proprio standard di vita. Infatti, la Croazia è il primo paese che entra nell'Unione con un'esperienza recente di guerra e la transizione dal post-conflitto è ancora in corso. Tra gli altri membri, molti sono scettici per questo nuovo ingresso. Rispetto ai parametri solitamente richiesti, quello della Croazia appare infatti come un caso anomalo. A preoccupare è un tasso di disoccupazione alle stelle e il rapporto deficit PIL fuori dai paletti europei. Tra dubbi e incertezze c'è anche chi vede nell'adesione all'Unione possibilità in più per i giovani e opportunità di lavoro. Su questa linea il ministro per l'istruzione Željko Ivanović. Le possibilità che si apriranno per la Croazia con l'ingresso nell'Unione ci permetteranno di migliorare la qualità dell'istruzione. Positivo anche il commento di Ivanka Slatec, membro dell'Associazione per il lavoro croato. La difficoltà dentro il network europeo sta nell'essere competitivi sul mercato, quindi se i giovani avranno capacità e competenze adeguate saranno avvantaggiati. Per i croati ora è il momento di capire cosa rappresenti per loro questa opportunità e sicuramente la Croazia ha ancora tanta strada da fare prima di rientrare nei parametri imposti dall'Unione Europea. Mariana Ballocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa, dove sale intanto ancora la disoccupazione a maggio rispetto ad aprile, nella zona euro passa dal 12 al 12,1%, nel 2012 era all'11,3% e anche l'inflazione è in ripresa nell'eurozona, dove a giugno su base annua è salita all'1,6% contro l'1,4% registrato a maggio. Vediamo anche alle altre notizie. La Commissione europea ha dato poco fa mandato all'alto rappresentante della politica estera Catherine Ashton di sollevare la questione Datagate con le autorità americane. Domani farà il punto nella riunione a Strasburgo. Una vicenda che rischia di mettere a repentaglio la trattativa per l'accordo sul libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti. Sarebbe un fatto preoccupante, ha detto questa mattina il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani. Il Datagate fa esplodere una vera e propria crisi diplomatica tra Europa e Stati Uniti. Durissima la commissaria europea responsabile per la giustizia, Viviane Reding, che ha commentato: i partner non si spiano l'uno con l'altro. La Reding si è spinta oltre. Non possiamo negoziare un grande mercato transatlantico se c'è anche il minimo dubbio che i nostri partner fanno attività di spionaggio negli uffici dei nostri negoziatori. Ad aggravare il quadro c'è la conferma che la NSA americana non spiava solo le istituzioni europee, ma anche le principali potenze comunitarie. Colpita in particolar modo la Germania con circa 500 milioni di comunicazioni spiate e la capitale finanziaria Francoforte presa di mira. Molto irritata pure la Francia, spiata al pari dell'Italia. Ieri è emerso che le nostre rappresentanze diplomatiche a Washington e New York erano imbottite di cimici. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto arriva un nuovo allarme. Le principali banche di investimenti mondiali hanno violato le regole dell'Unione Europea sulla concorrenza stringendo accordi illegali sul mercato dei derivati tra il 2006 e il 2009. È la conclusione preliminare a cui è giunta l'antitrust europea, che ha informato i 13 istituti coinvolti, tra cui Goldman Sachs e Deutsche Bank. Europa meno cara intanto, da oggi al telefono. Controllare le proprie email o navigare sul web mentre si è in viaggio in un altro paese dell'Unione Europea costerà da oggi più di un terzo in meno. Anche telefonare dall'estero in Italia costerà di meno, il 17% per la precisione, e ricevere telefonate il 12% in meno. I tagli delle tariffe roaming stabilite dall'Unione Europea cadono anche quest'anno il 1 luglio, in tempo per la stagione estiva. Quest'anno per la prima volta entrerà anche la Croazia nella partita, portando a 31 i paesi tenuti ad adeguarsi alle eurotariffe stabilite con preciso regolamento comunitario. Nel dettaglio, da oggi l'uso di internet all'estero calerà a 45 centesimi per megabyte rispetto agli attuali 70. Telefonare costerà 24 centesimi al minuto contro 29, ricevere chiamate 7 centesimi contro i precedenti 8 e anche il costo degli SMS calerà 8 centesimi e non più 9, mentre non si pagherà più per ricevere messaggi. In questo quadro è però ora scoppiata una guerra delle tariffe fra gli operatori, perché è poi vero che le sorprese peggiori vengono proprio fuori dall'Unione Europea. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora buona giornata da Anna Migliorati. L'Europa vi aspetta domani alle 13:15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.